più a rischio, ma lavora come il poliziotto. Ogni momento stai rischiando il culo. E così è lì. Purtroppo c'è gente che ribastano solo due bicchieri di vino, e già o due bicchieri di birra, di alcol, di altro genere, e già vanno le fumi a capo, cioè diventano bestie. E purtroppo bisogna combattere questa gente qua. C'è gente pure che va lì per affarrarsi, per attaccare in briga. Se una ragazza, per dire, non vuole ballare, la tirano, magari c'è il ragazzo vicino, si incazza e c'è ragione. Io ho visto storie così, Miantu, in discoteca, una ragazza è evitata da un tipo, e praticamente questa qui ha detto che non ci voleva andare, e questo qui ha preso, la tirata per il braccio, l'ho messo, si è cazzato, calma, la mia ragazza, e beh, lasci la fuzza, i leghi su di basso, buh, ecco, due cagate a faccia, è in terra. Purtroppo succedono queste cose. Quel cazzo di locale, per carità. Ma la modulazione è buona, è già. Capo, io sono romano, l'ho tolto fuori. Purtroppo in quei posti lì è un vero casino, bisogna stare molto molto attenti. Per quello che a me non mi piace andarci, perché io ho un carattere brutto, cioè mi affarro, non mi voglio andare in chirurgia. Beh, mi dica che cosa può chiamare, cioè se ti c'è la cadere della cura a fianchi, non c'è problema, no. Quindi è per quello che evita. Bene, se uno si comporta bene, vabbè che ci sono anche quelli che ti provocano. Una volta siamo andati a provare, c'erano questi tipi di Sassari che io conoscevo, tra l'altro, di vista, del monte, e stavano prendendo per il culo con l'amico mio per come ballava, e si buniva nel rivi, si abbandava e si buniva nel rivi e lo sbuffiavano ballando. Questo amico mio non è forte, però è prepotente. Ha pigliato la ghisola, ha detto, tu sei sicuro, sei mai andato da re lì, vai, l'ha pigliato, ma lo collarino, io vieni fuori, però lui ha preso, se l'ha tolto il coltello, se non mi mette lui, a mezzo guai. Giappa, subito un calcio a faccia quando fanno così. No, a mano gli ho tirato, gli ho buttato il coltello in terra, e da quello gli ho pigliato. Se no lui mi pigliava, che anche su cazzata, lì. E poi ho detto al fratello, ho chiamato il fratello al telefono, che lo conosco, che siamo amici, e tra l'altro ha detto, fratello, rimani così, così. Ah, così, si è attaccato a torre a casa, va. Si mi una bella barriata di giaffi. Non dove, cosa devi far male, questo poveraccio. Lui, per carità. Cioè, Antonio non stava cercando a nessuno, mi stava ballando per i cavoli suoi, stavamo parlando, ballando, e questi qui sono avvicinati a rompere le scatole, anzi avevamo attaccato con due tipi, mezzo corpo, ma eravamo ragazzini di 18-19 anni, 22 anni, e a prova che alla manicuri andavamo spesso, poi io dopo quell'episodio lì mi avevo fatto la greffa a provare ed ero proprio, cioè ero in casa mia, conoscevo le tipe, c'erano delle ragazze che conoscevo, mi hanno presentato altri tipi di provare, insomma ci portavano a casa loro, eravamo in greffa insieme ogni sabato e domenica, noi eravamo lì. L'ambiente nostro, appunto, cioè nessuno si toccava, Chiapa, ma no, proprio qua non ho capito bene, chi è che c'aveva il coltello? A quello che hanno minacciato? No, c'aveva il coltello l'altro. Non l'amico mio, ma quell'altro. C'è uno del monte, lo conosci sicuramente, dopo ti faccio il nome quando si trovava di qua. Lo conosci sicuramente. Che sono beati e lagni. Non ti che non riesco a difenderti con le mani, ma... Allora a questo punto era stato meglio se ce l'avesse pure lui il coltello. Però manco era passato tutto un macchino. Ehi, vabbè. Il mio amico lì è tipo che si fa rispettare, non si sa far l'altro, se non si fa rispettare un bene, non... A parole gli secca la lingua, eh. Che chiappa, ma non bisogna... Così se la parole, burro... Ma cosa? E che cazzo, l'altro giorno stavo cercando un pezzo di bastone. Ma non ti preoccupare Gianni, che quella vicenda là che sei tu, me l'ho legata al dito, me l'ho legata. Esitta, esitta, lui l'ha esitta, li sto ancora cercando, li sto. Quella del quadrato? Via. E ti credi che sia finita così, me l'ho legata al dito, me. Ho contattato pure un paio di amici così e... sono cazzi, questa volta. Caffo, ti dici... Lascia perdere anche... Ma è roba passata, eh? Oh, Antonio non dimentica, no. Avrei avuto... Sei come traiato. Come traiato brutto. No. Avrà a vedere che si fanno molto male. È un casino perché se ci mettevamo noi. L'idea è bastano le mani, si buono contro gente. Ragazzi, capito? Era un casino per quello. Ma a uno va più bestigato, dove va più bestigato? Ho fatto un bel mare. Ho fatto un cagnotto, mi sono pure misurato, mi sono per... secondo chi ce l'ha fatto in mezzo a quella mischia, l'avrebbe picchiato forte. Io è perché sono riuscito a scansarmi, mi sono pure misurato a farla di bene. Se no, la fortuna è stata quella. Sono diventato una bestia in mezzo a quella mischia. Però cazzo, erano in troppi. Beh, non è una volta che è successo così. E mi sono difeso, ma... Erano tantissime, erano in tre. Chiappa, ma chi si ne va in tre, già è più gigantesca, oh, mamma mia, cazzo, in quel momento avrei avuto una sfranga in ferro, è una di gas davvero, stasera. Vabbè, succede, sembrava che me lo sentissi io, cazzo, che tanto cosa strana dalla giostra, la sabbia. Per Paolo ti ha detto, tanto cosa se ne andiamo a fare? Tu mi un gioco solo, un giro solo, e dopo ti sei sedurrato, tutto incazzato. Chiappa. Ma una bella fare di bella, che mi ha provocato, una bella fare di bella faccia, l'amico poi già se l'ha portato via, già l'è arrivita perché mi si è stata di usare a capo, mi si è alzato. E poi si è fatto difendere dall'amico, miserabile capo. Ma io quelli li avevo visti venendo, quando stavo venendo al quadrato, quando stavo arrivando. Perché se ti ricordi il giorno io ero con la macchina mia, te lo ricordi? Ma mi pare di sì. E io stavo venendo al quadrato, li ho visti tutti i moto arrivando. Tutti quanti erano a fianco a me perché li ho riconosciuti, anche la moto li ho riconosciuti. Erano tutti quanti a fianco a me con la moto, mi hanno sorpassato chi a destra, chi a sinistra. Io ero in mezzo con la macchina, ma sono passato a destra e a sinistra. Quindi li ho visti bene. E poi si sono fermati lì. Che appagata. Mamma mia, ragazzi. Non me lo vedo neanche ricordare, ma vorrei che Antonio si vendica. Non sarà oggi, non sarà domani, ma... Il gesso mi devono mettere. Sì, vabbè. Occhio che non ti passare Roma a te, se mi fece la micchia da rete di cui ritorna. Non hai capito, no. Non hai capito, no, cosa succede. Questa volta non ci sono solo io. Questo è pure un di me questa volta. Ti ha pagata. Ti fa il bastardo, diventa il doppio. E sei tranquillo che quella gente lì non ci fa tanto piano, no? Non vedi gente volando come le farfalle. La metà di tutti avanti, un poco di vista, saper di stare, tutto tanto, vedi? Se non è che la ciappi a casa. Schiappa. Dio provvede, Dio vede e provvede, ma lasciamo correre, dai. No, a me mi passa, io non riesco a sembrare rancore per nessuno. Se trovo nel momento e sono incazzato di così, se no da bui non me ne affutivi nulla. Ti ho no. Io non sono così, no. Ma siamo esame, va. C'è problema. Ho una domanda, lavori? Negativo, e tu? Ah, no. Chiama, ma cosa è chiusa? Non lo so, non lo so. Io non sto bene, sono a casa. Non sto bene, anche. Cosa ti succede? Sempre quel malanola, mal di pancia forte, diarrea, vomiti, so che io vivi così. Beh, sei andato dal dottore? Sì, sono andato, mi ha dato anche le medicine, e anche a bruciare di stomaco, e ha detto che è un virus che c'è in giro. E così dicono. La sera è peducante fa parecchio. Infatti ci sono andato anche a fare delle analisi, mi ha mandato a fare delle analisi per ogni veniente. Ci sono andato lì a Tre Dolci a fare delle analisi. Laboratorio Nord. K. Cultura, analisi del sangue, e anche Marco le ha fatte l'analisi. Che ha pagato, che ha fatto una di sette anni, non io. Stavo dicendo già, me lo dà un segnale con questo apparato, perché mi è sembrato leggermente più basso. Prova. Due o tre prova radio. Una cosa più bassa, non tu, la sabbia. Sei quasi 9.30. Sì, va bene, sì. No, ma mi sono dato con quanti fatti hai scelto. Sto qua. Ma hai misurato là? Sì, neanche a 10 arrivo. 9? Sì, così, 9. E come il Galaxy, dai. È per quello che andava anche bene con il Dugoso. Mi lasci! Ma pure a cappella di Giardino. Quello andava bene lo stesso. Certo. Gli è arrivato quella cosa. Sì, me l'ha detto. Beh, l'avete messo il commutatore. È poco debilizzante. Quello di Giuseppe non va, lo sai. Non va? No, stasera lo stavamo provando. L'ha attaccato da una parte. Un baracchino solo. E praticamente gli dava stazionari. Arrivava sino a 7 di stazionari. Invece dall'altra parte no, dall'altra parte era 1 e 1. Perché magari è dalla parte giusta. Ah, quando ce la metti, tu lo puoi mettere differentemente da una parte all'altra. Non è così, no. La cosa non è così, altro, tu puoi attaccare l'apparecchio luminoso, lo puoi mettere sia da una parte che dall'altra. Poi tu lo numeri con il numero 1 anche se per 2, però lo puoi funzionare lo stesso. Quello che è possibile è che lui magari lo commutava dall'altra parte, magari se sbagliando, sì, boh, non lo so. Io non c'ero, però una parte non va. Ti ha pagato. Lui attacca, praticamente attacca dove ci sono i due cosi, attacca l'antenna. Dall'altra parte c'è un'unica uscita del baracchino, così va, vero? No. All'incontrario. L'antenna va dove c'è quello unico. Va lì. Poi da gli spezzoni vanno attaccati. Per dire l'apparecchio numero 1 da una parte, l'apparecchio numero 2 dall'altra, tu ci puoi mettere differentemente sia antenne che apparecchi, capito? È la stessa cosa. E quando commuti deve andare bene, cioè deve funzionare per forza bene, se no c'è qualche corto, qualche cosa che non va. Allora lui l'ha provato prima da una parte e gli dava 7 stazionari, gli ha detto prova dall'altra, ha provato dall'altra 1 e 1. E che cavolo, com'è possibile? Certo. Allora, quei cosi lì generalmente, se andiamo in fondo, ci sono anche le spiegazioni che te lo spiegano, sono commutatori che non sono fatti per attaccare due apparati, sono fatti per attaccare due antenne più il baracchino. Però si può anche fare questa cosa qua. Quello ci arrivavo, lo sapevo, quando c'è bisogno di essere spiegazioni. È una vita che li uso e non so che cosa servono. Ma si sono sempre usati, guarda, per cambiare i baracchini, ce l'avevo anche io. Per cambiare un baracchino dall'altro. È uguale, deve solo commutare da una parte all'altra, poi che siano antenne, che siano baracchini, va bene lo stesso. Cioè, quello già lo so. Bisogna vedere da che parte è che li danno le stazionarie. Ma c'è da che parte? Da una parte le dà, dall'altra no. Vuol dire che difettosa la parte che dove li dà le stazionarie, tutto lì, è quello che ti sto dicendo. Probabilmente ci usi, non c'è qualche cosa, però gli ho detto, secondo me è meglio che non lo tocchi, che lo spedisci così direttamente, lo dici che è difettoso e buco. Chiappa, ma il coso girato là, il coso a commutare, chiappa, magari lui non girava, non lo so, è strano è che non vada, magari lui non girava il coso per commutare, se tu non lo commuti ti dà le stazionarie. Chiappa, vabbè, questo non sarà, bisogna vederlo già. Magari da una parte andava, da una parte no, se non giri non anda. Io all'inizio ho pensato che fosse lo spezzone, perché l'ha provato solo da una parte e gli dava 7 stazionari, ma è impossibile, questa cosa è in corto. Allora c'è lo spezzone che non va bene, cambiali lo spezzone. No, è nuovo, l'ho comprato da poco, va bene, allora prova quello lì, ho detto. L'ha provato dall'altra parte e non va bene. Bisogna sapere se ha girato la cosa a commutare. E beh, certo che ha girato. Certo. Oh, è strano, non avrebbe dovuto farlo con il difetto lì. Ah, lo fa. Certo. Ma perché ha voluto provare in occhio? A chi va di tu? È caldo, eh. Ah, quando scalda fa quel rumore, quando fa quel rumore? Allora, così via. Pare che vada incandescente, va. E come ti cadono, ma non vedi, si inghiotto, lui si è ido. Apparato vecchio, a me. Ah, ma non c'è tra me. Come chiappa. E io, va, niente. adesso è bello caldo, così scendi, ci metti la bistecca tra la cucina. È vero. Scaldalo così tanto. Beh, ho grido già, pensa a quanto stai modulando, se moduli molto scalda, se non moduli rimane sempre a freddo. E boh. Ti do un ebbo. Magari c'è qualche componente che sta surriscaldando troppo, boh. Ma quando mai già, cazzarola? Ma non sai che dal canto si sta modulando? Donne ha ragione di scaldare, c'è anche l'alimentatore dentro, tutto integrato. Eccolo lì, è vero, l'alimentatore scalda. Come ti va, cioè? Guarda che è rimasto freddo per un bel po', adesso sono un bel po' con la porta anche aperta. Via, Lucrezia. Poi ci dà di gente, lui è stato un mio, sto cazzo di mal di denti, lui ia ia. Passiamo una nottata, bella bella. Affanculo. E un lupino, non ce l'hai? Non c'ho la petita di medicinali, adesso non la prendo. Occhio. Solo quello devo far passare a me. Che va di occhio, no? Ricordati di comprare Luki. È un bel forte, ti fa passare subito il dolore, ma immediatamente. Ma ricordo fa molto male gli occhi, però. Fa male, fanno. Se si abusa troppo del medicinale fanno male tutto. Ma gli occhi in particolare fa male, capito? Aspetta, ma la prendo, va. Allora, certo. Non lavorate tanto. No. È la festa delle donne, domani. Allora. E quindi non si lavora, bisogna festeggiare. Però dell'ombre. Cos'è che dici? Se scende, ma no. Ma mi sono la fatta del corno. Se la libidia di sassare in alto. Ero quello che troppo bene. Vincenti si replica, quando fate così si è Vincenti. Che appagato. Oh, e Luca, domani ci va la Befana? Come? L'anno scorso, due anni fa, in piazza, il giorno della Befana, hanno fatto vedere i pompieri, praticamente sono saliti sul tetto della provincia, vestito da Befana, ed è sceso, ha fatto la discesa, fino ad arrivare da Marini. Ci hanno messo una specie di spago lungo che andava dal tetto lì. E c'era il cane di un pompiere, però un cane privato, praticamente non era dei vigili del fuoco, ma di un pompiere che l'ha addestrato per salvamento in mezzo alle macchine, lo sai. Ma dice, non ti ha scusa? Ha detto che l'anno scorso, c'era la Befana dei vigili del fuoco in piazza, praticamente c'era un vigile che si calava dal tetto della provincia e arrivava sino a giù. E ha fatto la discesa col cane suo, praticamente questo cane era addestrato per salvataggio in mezzo alle macerie e roba del genere, però era di un singolo vigile del fuoco, non era del corpo, era suo proprio. Saranno sicuramente, se non mi ricordo, comunque lo fanno questo, ogni anno vigili del fuoco, però non so dove, già, forse Piazza Mazzutti, mi sembra, non mi ricordo. Ma non lo so, ce lo so dire. Comunque, era bellino l'anno scorso. Comunque, mi sembra che, questa colonna Mariana, lui si chiama Mariani. Mariana. Ah, lì lo fanno. Se non mi ricordo male, ho visto un ricordo, ma qualche anno fa adesso non mi ricordo, però dolore, cazzo, mamma mia, c'è anche il freddo, cioè non è che mi fa male, è che non so come mi duole un bel cazzo. È pronto a toccare, solo che quando niente fa male ti vedevo di toccare, non lo so. Non parlo ancora qui. Paga, tira di lì, io di buona ventina scorre e vuole lasciare come da me. Perché chi sarà ragione, anche un dito dopo Ma poi da chi so che appena appena così, o Giulia? Esatto, grazie. Si è già attaccato, si è già obbligato a tromba la stadio, e giù, da roba a come, da tutti i carri. No, lì bu sulla fontana, giù, al concerto di coso, di Neck. Hanno messo la fontana in mezzo alla gente, ha cominciato a fare sa cosa, si vede che ti fugge. Qualche esaurito, grazie, madonna. Tutta la gente brucente, si questa cosa e parava tu. Quando è così, purtroppo la gente, quando è cotta, non è che sia molto, non sarà di capo, gli fa effetto strano, gli fa l'ampulla. Quindi cosa fa? La prima cosa che ti capita già in mano, via! E poi ridiane, quando vedi la gente brucente ridia. Beh, cioè, se uno non è sano di capo in questo momento, cioè non ha colpa, non è manco. Sono un imbriacarsi, e andare in giro. Se ne resta a casa sera si può imbriacare. Schiappa. Dopo è così, c'è gente che quando beve un bicchiere di troppo, cioè non capisce un cazzo. Piglia, cioè. La prima cosa che deve a tiro vale, cioè. Ma è così, è normale, non è che io sia da meno, no? Cioè, sì, se per esempio ti ha girato in un petardo vicino, cioè, sotto la reccia, tre volte e basta, no? Non me ne ha fatto nulla, ma proprio tre volte, a chi non so che sei già navigato, in questo momento. Già sei appena bombardato. Cioè, davvero che ci mette tutti i momenti, è terribile. Dito già. Comunque, ne ho sparato di roba a casa per concerto. In mezzo alla gente, che se ci vuoi sa cosa, perché... Ciao. buonanotte, domani, ciao.